Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il ciclismo. Non esiste probabilmente uno sport così completo e ricco di emozioni. Il ciclismo ha tutto: la strategia, la tattica, la velocità, la sofferenza, i paesaggi, l'epica. Una grande corsa a tappe è un concentrato unico di sentimenti sportivi differenti, genuini e affascinanti. I grandi campioni che si sfidano appena la strada sale, nei grandi tapponi di montagna, hanno qualcosa di leggendario che inevitabilmente eccita l'immaginario di tantissimi appassionati. È importante il fatto che per la prima volta la maglia gialla sia in difficoltà. Tra l'altro adesso vediamo che Pantani ha ancora la forza di scattare. Ovviamente adesso la strada spiana un po' dopo l'ultimo chilometro e c'è l'impennata degli ultimi 300 metri. Credo che si possa dire che a questo punto è fatta. Bisognerà solo adesso fare un discorso di distacchi. L'apoteosi per Marco Pantani, che dopo 2 anni torna al successo nella sua Alpe d'Huez, e dopo Bugno, dopo Winnen, dopo Zotemelk, anche lui concede il bis nella scala del ciclismo qui all'Alpe d'Huez e si porta al terzo posto della classifica generale. Il pirata ha colpito, eccolo con le telecamere fisse, a 2 anni di distanza dalla sua ultima vittoria. Il Tour de France ci ripropone un grande, un grandissimo Pantani. Oltre al gesto atletico, bisogna applaudire a Pantani soprattutto il fatto umano. A livello morale, questo ragazzo che ha avuto tanta, tanta fortuna, oggi finalmente può alzare nuovamente le braccia al cielo. La solitudine del campione, questo forse è l'elemento del ciclismo che più affascina il pubblico. Uomini che lottano contro i propri rivali, ma anche e soprattutto contro se stessi, contro i propri limiti fisici e mentali. La nostra storia di oggi racconta una delle epiche rivalità che hanno fatto grande questo sport, spingendo i due campioni in questione a migliorarsi sempre di più fino ad assurgere tra i più importanti di questo sport. Una rivalità che ha origine nel decennio degli anni 60. Quando muore un re o un grande sovrano, c'è il vuoto, lo sgomento, la paura di chi rimane, gli sopravvive. Ma si apre allo stesso tempo la lotta per la successione, che può risultare lunga, difficile e non priva di colpi bassi. Il 2 gennaio 1960 il ciclismo perde il suo re. A soli 40 anni, quando è ancora in attività, sebbene in forte declino, si spegne Fausto Coppi. Per la storia del ciclismo, dunque, gli anni 60 si aprono con la morte del più grande atleta di tutti i tempi, il più amato, il più discusso, anche il più triste. Nei primi anni del decennio c'è il vuoto. C'è per la verità un campione che domina in maniera regolare e impressionante le grandi corse. Si chiama Jean Anquetil. Il talento è straordinario, ma lo è ancor di più la testa. Anquetil vince le corse come un freddo calcolatore. Si impone nelle frazioni a cronometro, si difende con classe nelle tappe di montagna senza mai attaccare. Insomma, non sa infiammare il grande pubblico. Mai uno scatto inaspettato, mai un tentativo di impresa. Il suo modo di correre lascia poco spazio all'immaginazione. Addirittura Anquetil al suo terzo Tour de France viene fischiato nel giorno del trionfo al Parco dei Principi da quello che avrebbe dovuto essere il suo pubblico. I tifosi transalpini, tuttavia, sono più legati a un atleta come Polidor, il suo rivale bello di fama e di sventura, eroico, combattivo, epico, ma eternamente secondo. La sua grinta e i suoi poderosi scatti in salita esaltano la gente, ma non servono a battere Anquetil, campione robotico sui pedali, ma dalla vita incredibilmente sregolata nel quotidiano. Come spesso accade, anche la loro rivalità si trasforma in amicizia virile. Quando Anquetil sarà sul letto di morte nel 1987, a Polidor, il rivale di sempre, che va a trovarlo in ospedale, egli dice con l'ultimo filo di voce rimasto: «Vedi, Raymond, anche questa volta ti tocca arrivare secondo». In ogni caso, la rivalità Anquetil-Polidor dà la misura, in un certo senso, della crisi di popolarità del ciclismo del dopo Coppi-Bartali. Manca una vera rivalità alla pari tra due atleti che sappiano far sognare il pubblico e sappiano lottare per la vittoria. Anno 1965, Giro d'Italia. È l'anno in cui, dalle maglie del ciclismo mondiale, iniziano a intravedersi i dettagli di quella che sarà la nuova grande rivalità. Nella corsa rosa vince Vittorio Adorni, atleta emiliano completo e solido, intelligente e insolitamente forbito nel linguaggio nelle interviste. Adorni domina con distacchi abissali, prende la maglia rosa nella parte iniziale, la perde a Catanzaro per poi riconquistarla a Madesimo, dove arriva da solo con oltre 3 minuti di vantaggio su un altro personaggio leggendario del ciclismo di quegli anni, Vito Taccone. Al secondo posto della classifica generale di quell'edizione si piazza Italo Zilioli. Al terzo, sul gradino più basso del podio, giunge un giovanissimo fenomeno bergamasco che lascerà un segno profondissimo nella storia del ciclismo. E anche il nostro primo personaggio di oggi. Il suo nome è Felice Gimondi. Felice Gimondi. Felice Gimondi nasce a Sedrina, in provincia di Bergamo, il 29 settembre 1942. Il piccolo Felice è figlio di Mosè, un postino che vive e lavora in bicicletta. È da lui che apprende l'arte di pedalare, in quanto il ciclismo è prima di tutto una necessità. Ari, ricordati di portare la bicicletta. Ci vuole la bicicletta. C'è sta scritto pure lì, no? Ad ogni modo, il futuro campione si avvicina piuttosto tardi a questo sport. È intorno ai 18 anni, infatti, che Felice Gimondi inizia a correre per la società US Sedrianense, squadra in cui milita anche da dilettante. In quest'ultima categoria, però, già si scorgono i semi del suo talento, soprattutto quando nel 1964 vince la sua prima competizione, sorta di mini Tour de France fatto apposta per ciclisti dilettanti, il Tour de l'Avenir. Nel 1965 diventa ciclista professionista nel team della Salvarani, gregario alle dipendenze di Vittorio Adorni. Al Giro d'Italia gli fa da fedele scudiero e lo aiuta ad arrivare in rosa a Milano. Nello stesso anno però prende anche subito parte alla Grand Boucle, come viene soprannominata la competizione più amata dagli appassionati, il Tour de France. I want to ride my bicycle. Cosa rappresenta il Tour de France per un ciclista? È davvero la corsa più affascinante del mondo? Da dove deriva questo incredibile fascino? Uno che di maglie gialle se ne intende, l'americano Lance Armstrong, ha provato a spiegare così la corsa francese. Ho imparato cosa significasse partecipare al Tour de France. Non ha nulla a che vedere con il ciclismo. È una metafora per la vita. Non rappresenta solo la gara più lunga del mondo, ma anche la più esaltante, la più estenuante, la più potenzialmente tragica. Pone di fronte al corridore qualsiasi elemento possibile, e anche di più. Freddo, caldo, montagne, pianure, solchi, gomme bucate, vento forte, sfortuna indescrivibile, bellezza impensabile, mancanza di sensi da intorpidimento e soprattutto una grande, profonda autoanalisi. Anche durante la nostra vita siamo posti di fronte a così tanti elementi diversi, incontriamo così tanti ostacoli imprevisti. Combattiamo un simile corpo a corpo con i fallimenti, abbassiamo la testa sotto la pioggia cercando di rimanere in piedi e di mantenere una piccola speranza. Il Tour non è solo una gara di ciclismo, niente affatto. È una prova. Ti prova fisicamente, ti prova mentalmente, ti prova persino moralmente. Gimondi ha 23 anni quando corre il suo primo Tour. Ordine di squadra ben preciso, supportare il capitano Adorni. Gimondi è talentuoso, si sa, forte ovunque, in salita, cronometro, buon passista. Ha un avvenire sicuro, dicono. E si sbagliano. Gimondi ha già un presente sicuro. Eh sì, perché accade allora che il suo capitano Adorni si ritiri dopo una crisi su una delle dure montagne francesi. Il giovane ciclista bergamasco, rimasto a ruota dei migliori, si ritrova per un gioco di classifica con la maglia gialla sulle spalle. Giornalisti addetti ai lavori affermano: la terrà qualche giorno, poi i grandi si daranno battaglia. Invece Felice, alla sua prima esperienza al Tour, al suo primo anno tra i professionisti, non molla un metro. Sul mitico Mont Ventoux, Raymond Poulidor attacca. È un attacco che ha la forza della disperazione, perché lui, eterno secondo dietro ad Anquetil, ora è il grande favorito. Ma il destino gli ha messo davanti un altro numero uno. Poulidor si alza sui pedali, spinge, come al solito, tra due ali di folla, spinto da tutti i tifosi francesi. Gimondi resiste, limita i danni, mantiene la maglia con solo 34 secondi e nella cronometro di Versailles, il giorno dopo, chiude la partita. Alla prima partecipazione, Felice Gimondi vince il Tour de France. Gli appassionati italiani hanno trovato un nuovo grande idolo. I francesi si incazzano ancora dopo i trionfi di Bartali e sono costretti a sentire l'inno di Mameli sugli Champs-Élysées. Con un esordio simile, Gimondi fa capire subito di essere un atleta straordinario, destinato alla grandezza. La sua gestione della corsa, nonostante la giovanissima età, è perfetta. Il passaggio da gregario a capitano quasi non si avverte e anzi da leader Gimondi comanda la squadra con una perentorietà eccezionale. Fluido in salita, ottimo a cronometro, Felice viene pronosticato come un potenziale dominatore del ciclismo degli anni successivi. Il suo problema, però, è costituito essenzialmente dall'incontro che il destino gli riserva l'anno successivo, il 1966. In particolare alla Milano-Sanremo, grande classica in cui Gimondi parte con i favori del pronostico. È una corsa strana la Milano-Sanremo, nervosa, irregolare, con degli strappi secchi e duri verso la fine, due colli come la cipressa e il poggio che bruciano le gambe. Gimondi in realtà non conduce una grande corsa, va in difficoltà, rinuncia presto a lottare per la vittoria, si classifica infine 24esimo. Se i piani di corsa di Gimondi come di altri saltano però, lo si deve soprattutto alla condotta di gara di un giovane atleta belga. Sul poggio il giovane Eddy Merckx detta il ritmo. Quest'anno l'ex campione del mondo dei dilettanti veste la maglia della Peugeot, gruppo storico di affiliazione francese. Gli attardati non hanno più speranze. Superato il dente del poggio, restano in fuga con Merckx anche Passuello, Dancelli, Zilverberg, Aymar, Poggiali, Poulidor, Van Springel, Balmamion, Maurer, Durante. Le speranze italiane sono riposte su Adriano Durante, ma il velocista della Salvarani viene superato in volata da Eddy Merckx, terzo Van Springel, poi Dancelli. Passuello, Maurer. E il nostro secondo personaggio di oggi, il cannibale, Eddy Merckx. Eddy Merckx. In quella Milano-Sanremo l'avvento di Merckx ha del miracoloso, del sovrannaturale. Che fosse un giovane di talento, questo si sapeva, perché nei dilettanti aveva messo in mostra ottime doti e soprattutto aveva vinto moltissimo. In quella corsa però, a 21 anni, Merckx corre come letteralmente indiavolato. Sembra un gigante. Strategia poca, forza, fisicità e potenza sono però impressionanti. Si mette davanti Merckx e tira. Sembra un gigante che vuole distruggere tutto ciò che gli si fa incontro e al cui cospetto gli altri ciclisti sembrano dei lillipuziani. Trionfa Merckx, è il suo primo successo importante, dal quale si comprende però che il destino del ciclismo dei successivi 15 anni sarà segnato dall'incrocio tra Eddy Merckx e Felice Gimondi. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati vi raccontiamo la storia della grande rivalità tra due grandissimi campioni del ciclismo, Felice Gimondi ed Eddy Merckx. Vi abbiamo raccontato gli esordi, che hanno in comune la rapidità di successo, la precocità, il periodo. Gimondi vince addirittura il Tour de France nel 1965, da debuttante assoluto. Nel 1966 Merckx vince la Milano-Sanremo, dominando la corsa, attaccando dall'inizio alla fine, massacrando i suoi avversari. Da quell'anno la rivalità vera ha inizio. Il primo vero scontro diretto tra i due avviene al Giro di Lombardia nel 1966, la classica delle foglie morte, quella che chiude la stagione. Attacco di Merckx, Gimondi risponde. Fuga insieme, poi Gimondi batte Merckx precedendolo in volata. L'italiano deve ben presto fare i conti con una verità. Merckx, per indole, è un autentico dominatore, un colossale divoratore di tappe che ben presto imporrà il suo strapotere sul circo delle due ruote. Gimondi, lavorando duramente, con grandissima serietà, riuscirà a rimanere a livello per risultare uno dei pochi a resistere al cannibale, come verrà chiamato Merckx, opponendosi come potrà all'immensità del belga, il quale però continuerà a migliorarsi proprio grazie alla presenza di Gimondi. Giro d'Italia. La Corsa Rosa vive un'edizione incerta ed emozionante. I due principali contendenti sono Gimondi e il vecchio Anquetil, mentre Merckx, con la sua irruenza, si aggiudica due vittorie di tappa, ma naviga intorno al nono o decimo posto in classifica. La penultima tappa si corre in un luogo mitico per tutti i ciclisti, il Ghisallo. Il Colle del Ghisallo è un'altura che si eleva sopra Bellagio e che congiunge il triangolo Lariano e la strada Valassina. In cima al colle, al culmine della strada, al culmine di una salita dura e affascinante, c'è una chiesa, un piccolo santuario. La Madonna del Ghisallo è stata proclamata da Papa Pio XII santa patrona dei ciclisti. Un giro dentro alla cappelletta è quanto mai suggestivo, con cimeli di grandi campioni, pezzi storici di biciclette d'epoca, riferimenti di ogni tipo a questo splendido sport. Qui, davanti alla chiesa del Ghisallo, Gimondi vince il suo primo Giro d'Italia. Già in rosa, ma con pochissimi secondi di vantaggio su Anquetil, attacca e scombina la classifica generale. Anquetil è terzo, dimostrando grandi doti di resistenza. Merckx è solo nono, ma ha capito benissimo i meccanismi di una grande corsa a tappe. È pronto per la sfida a Felice Gimondi. In quell'anno però Merckx vince per la seconda volta la Sanremo, poi si aggiudica Gun Wevelhem, Freccia Vallone e infine il campionato del mondo. La corsa iridata si svolge a Irlen. Motta tenta un attacco che a tutti appare suicida. Insieme ad altri due corridori parte all'attacco dopo soli 8 km di corsa. Merckx intuisce il pericolo e si riaggancia ai fuggitivi. Negli ultimi chilometri rientra sui primi anche Janssen, reduce dai successi della Roubaix e al Giro di Spagna, e la corsa si decide in volata. Merckx, con un prodigioso colpo di reni sulla linea di arrivo, elude il ritorno proprio del pericoloso Janssen, mentre Motta, ormai sfinito dall'interminabile fuga, è solo quarto. Un giornalista, Sandro Picchi, scrive l'indomani sulla Gazzetta. Merckx corre finché le forze lo sorreggono, con l'animo del cavallo di testa, del capobranco, del condottiero, sempre davanti a tutti, sempre affamato, sempre mosso dall'identico scopo, la vittoria, qualunque sia la gara, kermesse paesana o campionato del mondo cui partecipa. 1968. Nell'anno della contestazione, nell'anno in cui in tutto il mondo milioni di giovani manifestano per la libertà, nel ciclismo si instaura una dittatura, quella di Eddy Merckx. La rivalità con Gimondi, l'unico in grado di contrastarlo, entra nel vivo, ma il cannibale vince e brutalizza qualsiasi corsa cui partecipi. È l'inizio di un'epoca dal nome impronunciabile, il merxismo. Il campione belga apre le danze vincendo la Parigi-Roubaix, mentre il suo avversario predestinato, Felice Gimondi, si impone nella Vuelta di Spagna. Il giro si infiamma del duello tra i due. Il bergamasco cerca di ripetersi, parte con i favori del pronostico, inizia alla grande. Nella cronometro di San Martino batte Merckx, ma il belga gli risponde aggiudicandosi tre tappe, dominando letteralmente quella decisiva alle Tre Cime di Lavaredo. C'era chi diceva che quel guerriero venuto dal nord fosse troppo grosso e pesante, improbabile nelle grandi salite, quindi tagliato fuori dalle corse a tappe. Si sbagliavano di grosso. Édouard Louis Joseph Merckx è nato in Belgio, nella piccola frazione di Menselkisam, il 17 giugno 1945. I genitori gestivano un negozio di alimentari, avevano in tutto tre figli, Eddie più due gemelli. Ho avuto un'infanzia molto felice. Due genitori molto amorevoli e sensibili che non mi hanno fatto mancare nulla, sebbene non fossimo ricchi. Mio padre era un uomo di carattere, anche molto duro. Mia madre invece era molto tenera e dai modi gentili. Io credo di essere diventato un misto di loro. Ho preso la mia determinazione da mio padre e da mia madre invece la capacità di leggere le situazioni con sensibilità. Mio padre inoltre era un gran lavoratore e da lui ho anche imparato quanto sia importante soffrire. Merckx nell'infanzia pratica calcio e pugilato. Il ciclismo lo appassiona all'età di 8 anni, quando inizia a seguire le gesta del campione belga Stan Okkers, un idolo negli anni 40 e 50 che muore tragicamente in corsa ad Anversa in seguito a una caduta. A 8 anni la prima bicicletta, i primi esperimenti. Il padre lotta per farlo andare a scuola, anche se Eddie non ama molto passare il tempo sui libri. Così nel 1961, a 16 anni, viene preso in una squadra di dilettanti con cui inizia a disputare e vincere le prime gare. Nel 1964, da dilettante, partecipa alle Olimpiadi, per poi passare tra i professionisti nel 1966, trovando ad aspettarlo il futuro rivale Felice Gimondi. Anche gli dèi, però, possono franare. Nel caso di Merckx, egli viene fatto franare. Da chi ancora non è dato saperlo. Avviene però nel 1969, anno che il cannibale inizia vincendo la Parigi-Nizza, la Milano-Sanremo, la Freccia Vallone, il Giro delle Fiandre, con una fuga solitaria di 70 km, che lo porta ad avere alla fine 5 minuti di vantaggio su Gimondi e un quarto d'ora su Janssen. E la Liegi-Bastogne-Liegi, lasciando solo la Parigi-Roubaix al belga Godefroot. Al Giro d'Italia Merckx lotta, come al solito, con Gimondi e prende subito la maglia rosa. A Savona, però, risulta positivo al controllo antidoping e viene squalificato dalla giuria. Questo si è ricordato, diciamo, andata tranquilla, senza nessuna difficoltà importante. Se lei avesse dovuto prendere una cosa, l'avrebbe presa in altro lato, non certo in questo. In quello, però, io sempre mi vuole stare un sportivo regolare e mi battere con le gambe e non con altre cose, io non so che però. Intervistato dal grande Sergio Zavoli nella mitica trasmissione Rai Processo alla tappa, Merx piange e dichiara la sua innocenza. Un uomo della sua potenza ha realmente preso sostanze proibite. I dubbi permangono, anche tra i compagni, colleghi e addetti ai lavori, anche perché Merx non si era mai sottratto ai controlli prima. Si parla di sabotaggio perché all'epoca i corridori ricevevano borracce dal pubblico e qualcuno poteva aver messo qualcosa di proibito in una di quelle borracce. In quel giro funesto, Felice Gimondi, seppur con un velo di tristezza, si aggiudica la corsa, rafforzando ulteriormente questa grande rivalità che ha ridato forza al ciclismo. Destini incrociati. La grande rivalità tra due campioni straordinari del ciclismo, Felice Gimondi ed Eddy Merckx, ha segnato gli anni a cavallo tra i 60 e i 70. A colpi di successi, i due diventano gli uomini da battere alla fine degli anni 60. Gimondi, all'inizio del nuovo decennio, ha già vinto due giri e un tour, Merckx solo un giro e un'infinità di classiche. Dopo la triste squalifica per doping del 1969, il cannibale, come è soprannominato il campione belga, è pronto a riprendere la sfida. Quasi per lavare l'onta della squalifica al Giro, nel 1969 Merckx affronta il Tour con una foga incredibile. Il 15 luglio compie un'impresa epica degna del ciclismo dei pionieri. In solitudine scala il Tourmalet e l'Aubisque e vince l'importantissima tappa, arrivando a vincere la frazione con 7 minuti di vantaggio e la corsa con 17 minuti su Pingéon. Stagione 1970, siamo in piena dittatura belga. Gimondi lotta, combatte, ma non c'è niente da fare. Valé vince la Parigi-Nizza e poi, nel giro di una settimana, Gand-Wevelgem, Parigi-Roubaix, la Freccia Vallone. Poco dopo arriva la prima doppietta Giro Tour. Al Giro la battaglia con Gimondi dura una decina di tappe. Al Tour l'italiano non partecipa, così l'olandese Zoetemelk conquista il primo di una lunga serie di secondi posti, tutti segnati dalla rassegnazione a un dominio assoluto. L'anno successivo il duello tra i due si rinnova nel campionato del mondo. La corsa iridata va in scena a Mendrisio. Metà gara e i due sono in fuga, Eddy Merckx e Felice Gimondi ancora una volta insieme. Il cannibale quell'anno ha già vinto il Tour, seppur faticando più del solito contro lo spagnolo Ocaña. Ora si contende con Gimondi il successo mondiale. Una grande gara con un grandissimo sprint finale. Il campionato del mondo di Mendrisio 1971 è una gara bellissima. Eddy Merckx vince battendo allo sprint il suo rivale Gimondi e indossa la maglia iridata nella stagione successiva, ribadendo la sua supremazia. Io sono un campione. I duelli tra Felice Gimondi ed Eddy Merckx proseguono per buona parte degli anni 70. Il bergamasco riesce a completare il suo palmarès, riuscendo a sconfiggere Merckx nel mondiale del 1973, dopo un altro scontro a due e vincendo l'agognata Milano-Sanremo. Felice avrebbe potuto essere il re, questa era la prospettiva. Si è trovato un cannibale di troppo e ha finito per spendere la sua grande carriera a cercare di rincorrerlo e di detronizzarlo. Merckx intanto realizza ancora una doppietta Giro Tour nel 1973, un'altra doppietta Giro Vuelta nel 1974, anno in cui batte anche il record dell'ora a Città del Messico, ma soprattutto la leggendaria tripletta del 1974, Giro, Tour, Campionato del Mondo, impresa riuscita solo a Fausto Coppi prima di allora. Curioso pensare, tra le altre cose, che oltre a vincere da febbraio a ottobre le gare su strada, Merckx non si riposi nemmeno d'inverno quando corre nei velodromi. Sono 98 le sue vittorie su pista, tra queste i titoli di campione europeo e campione nazionale di varie specialità e 17 6 giorni, le più importanti delle quali a Grenoble, Milano, Monaco, Berlino, Zurigo, Gand. Il 1975 è l'anno che vede Merckx imboccare il viale del tramonto, che per uno come lui significa ottenere solo 38 vittorie, un altro Giro delle Fiandre e la quinta Liegi-Bastogne-Liegi. Nel 1976 soltanto 15 vittorie, ma un'altra Milano-Sanremo per un totale di 7 su 9 partecipazioni e nel 1977 17 successi minori. Sentendo insopportabile il peso della sconfitta, l'amarezza del secondo posto, decide il ritiro nel marzo del 1978. Merckx conta 525 vittorie su 1800 gare su strada disputate, il 30%, una percentuale impressionante distribuita lungo 17 anni di agonismo, come dire che per una gara su quattro gli avversari hanno corso per il secondo posto. Gimondi invece dimostra maggiore longevità e in un certo senso approfitta del declino del rivale per togliersi le ultime soddisfazioni. Nel 1976, infatti, il grande ciclista di Sedrina conquista il suo terzo successo al Giro d'Italia, per poi andarsi a prendere anche la sua seconda Parigi-Bruxelles. Nel 1978 arriva la sua ultima gara da professionista al Giro dell'Emilia. Felice Gimondi può vantare nella propria straordinaria storia ciclistica ben 141 corse vinte. Soprattutto può vantarsi di essere stato il boccone più indigesto per il più feroce dei cannibali. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Altri destini si incroceranno domani alle 15 qui su Radio 24.